Vecchie! Nessuno. Tutti morti sono. Di andare via di San Paolo se ce n'è qualcuno vivo. Poi. Vuoi dire che ti vuoi dire? Arrivo. Tutti morti sono, cazzo. Bella fine, la 27, cazzo, per carità. Cazzo. Che fine so. Che fine c'è? Non fate così. Noi sono in ordine. Mia casa è un riburgio, la matta c'è cosa. Ma ci siamo noi che teniamo sempre sveglio questo canile, però guai, andiamo bene, andiamo. Poi stamattina ho sentito anche Emanuele, sei sentito anche stamattina Emanuele. Ma di persona? Su 10 stavo stazionando, ho sentito la portante ed era lui, si è andato, ha fatto la chiacchieratina e ma abbiamo chiuso subito là. Ma da voi invece sto vendo cosa? Anch'io sono uscito, anzi sono andato anche a un gommista sta con gomme e mi sembra che quelli hanno fallito e hanno chiuso tutto, sicché mi sono fatto il giro e sono ritornato a casa. Sì, fatto bene. No, io stavo facendo delle commissioni a Nene Terrelli. Sono messo qui traccato un po' garino. Stamattina però sono ucciso, capito? E poi equilibrarmi le gomme, che mi sembra che vogliono equilibrarsi. Ma siccome vado sempre da loro, andavo sempre da loro, ma mi sembra che abbia chiuso, non c'era più nessuno. E me sono tornato, andrò a qualche altro gommista e me ne faccio equilibrare. Infatti, io ve ne so gommisti, a voi già ve ne so. E beh, E qualcuno che li sappia fare, però, perché ce ne sono messi a fini, No, no, ce n'è che li sa fare. Fa voglia se ci sono, per parecchie pure. Sì, già ce ne sono. C'era anche un olito, cioè, a Bricomen. C'è anche a Bricomen, ve ne uno anche lì. Poi ce n'è un altro anche l'ho visto. Ce ne sono parecchio. Che insomma anche vicino a Cosio a 75 gradi, o come cavolo si chiama quel ristorante. Ah, dove? Boh. Ah, Pedragnesa, cazzo, più su delle cose. Per il fornitore del città mercato qui a questa parte, però. Ah, ho capito che stai dicendo. C'è anche quello, c'è. Sì, c'è la sofferenza. C'è quello di andare in portocorso, neanche. Anche se sono ciappini, se non ha cambiato. Prima ce n'era uno che era un ciappino veramente. Si vede che era un vicello e ancora non riusciva a come si mettevano i piombi. Poi si è fatto nuovo questo, che si era imparendo. Non so se abbia cambiato, ma stavo per entrare, mi dopo ho pensato, se c'è quello non me li equilibra bene, capito? Allora ne sono andato, andrò a qualcun altro. Oh, c'è la Genovese, Giuliano Portatore c'è anche, quindi a voglia. C'era anche uno di Assorso anche, va. C'è anche uno Assorso, un di Assorso ce l'è. Anche lì. Ma mi sembra che quello di via Assorso non c'è più. Mi sembra che abbia chiuso. Infatti adesso mi sembra una ventina di giorni fa, mi sembra che era aperto. E tanto ci passo molto spesso lì, per cui guardo se c'è, mi fermo e vediamo un po'. Non si va già che ne sono, per cui. E mi devo fare equilibrare, capito? Perché mi balla lo stesso, capito? Infatti se ballano stesso vuole equilibrato, vuol dire che non è stata fatta bene. Ehi, mi ho fatto 2 o 3 anni fa, so. Mi hanno fatto 4 anni fa quando ho messo le gomme nuove, dopo dovevo ritornare nella gomme e invece mi sono pitonnato, per cui adesso mi sono accorto, cominciando a ballare, allora voglio equilibrarsi, capito? Sì, infatti. Non mi ha dato buoni controllati. Ah, sto un attimo, Gio Maria. Sveglia Gio Maria. Finito? Sì. Così niente mangiare un gambo. Oh, cosa hai messo? Volevo cucinare due metri a bollire la carne, ma a domani. Ma cosa metti? Crocchette, ciò? Poi le crocchette le metto con un po' di carne. Quindi sta parlando un po' di carne, adesso mi sa che devo già andare. A che aeroporti fuori? Stanotte verso le 9:15, 9:30 e domani alle 9:50. Non ti avvisano? ma ve ne bisogno, già esista, ti aspetta adesso. Dai, bravo, allora dai. Allora dai, bravo, l'hai educato bene. Infatti, ti aspetta, come mi vede che sono, che mi sto mettendo il giubbotto, allora si avvicina a me. Addio, io. Allora, io chi chiamo, va? Sono passato lì vicino, ne c'era uno con un cane nero che aveva. Diceva casa sua. Sempre passa. E in mezzo andato il suo vicino. Ormai no. Non c'è niente da recuperarlo. Non gai si può recuperare, ma è duro. Ah, Luci. Ho visto, insomma, anche pensavo che fossi, che fossi tu, io, invece no, era un altro. Infatti mi sono fermato un po', ho guardato. Allora, dietro di te hanno fatto il giardinetto, hanno portato gli alberi lì. Sì, l'hanno pulito, è diventato un cimitero, è diventato. Certo, meno male, quanti anni era senza pulito che lì? Quello lì, ogni pianta è uno che c'è al cimitero, ogni pianta di quelli lì. Beh, è più bellino pulito, vai, l'hanno fatto bellino, vai. Sono ricordi che ci sono. Fa piacere avere una cosa bella, poi a portare quelle alberetti che c'erano, certo, va bene. E beh, infatti l'ho visto stamattina che stavano lavorando. Lei ha fatto le cose, la figlia, l'altro albo che c'era a Palma, mi hanno girato giù tutta, va? L'hanno tutto un po' potato. E quello è del comune, no? Roba del comune. Poi nel comune era, l'hanno messo tutto il coso, hanno chiesto il permesso a tutti quelli che abitavamo qua, a una cosa del genere. Ho visto che hanno messo delle piantine, hanno messo anche. È una cosa bella, dai. Quando sono più grandetto è bello quel pezzo, dai. Ogni cosa, ogni pianta è un muro. Spero male. Spero male che ci stanno andando a fare, dai. A fare qualcosa di bello. Bene pulito pure lì, specialmente che c'è quel papa lì, che almeno vede più pulizia lì. Infatti è così, e vabbè, almeno rimane più pulito. E allora, cazzo, non c'è bene, però ce ne sono due pezzi che fa schifo, cazzo, per carità, non li puliscono. Cazzo, noi siamo i cestugli, cazzo, più piace di noi morire, cazzo. Un mondo assaio di pentemeri, ma io guardarei senza i muri drogati a farsi a punirsi gatta lampada di terra e per un mondo assaio. Ah va, andano a pigliarsi la viga il prossimo anno, andano a pigliarsi la viga e si attaccano ai rami. Ok, sta, gatta. quello era di uno di quella palattina che aveva recintato, aveva messo tutti quegli alberi, poi è morto e si è pensato il figlio, e ma il figlio non è voluto pulire mai, e così è, così è, ecco perché mi è diventato sporco. Cioè, prima il padre già lo puliva. Se non c'è nessun coso diventa un porcino, diventa come te la diventa di noi. Poi noi abbiamo cavato tutta la recinzione e si è fatto più pulito, oppure abbiamo preso questo in mano e l'hanno imbolito più bene, quindi adesso si vede anche più bene, si vede. E poi l'aveva recitato, no? L'aveva recitato, così che quelli che traevano l'erba non entravano mai dentro, capito? Perché l'ha recitato, invece se l'avrebbero tolto il recinto, almeno quelli l'avrebbero tagliato l'erba. Infatti così, e così abbiamo fatto noi, abbiamo tolto il recinto e poi passavano quelli là e tagliavano l'erba. Adesso invece lo tengono più conto loro, ecco cos'è. Qua invece fanno così, sono tre o quattro pezzi che già li stanno pulendo, ma ce n'è uno che è molto grande, è un po' di tutti gli alberi. Cazzo, è bello, quando brucia è bello, specialmente in estate, cazzo. Però adesso siamo cresciuto tutti dalle radici, tutti i polloni, e ci sono un sacco di roba che è uscita, è un bosco mi sembra, un bosco. E bene o male lo hanno messo fuoco, cioè sarebbe stato un macello, anche per gli abitanti dove siamo noi. Si vede la figliardina che venga in Italia, abbiamo fatto, è diventato un coso, è diventato a fare dai. Prima viravi a Chicco l'assessore che mandava una quadra a pulire, ma non si è visto più nessuno, si è visto. Poi allora a Chicco è diventato una foresta, è diventato un porcino, è diventato. Ma poi ci sono quelli che tagliano l'erba, no? La finta di tagliare l'erba, io una passata così e la me ne frego e ce ne fanno su. E non la raccolgo nemmeno. Invece tagliano bene l'erba, non la tagliano bene, fanno una passata così e ce ne fregano. Infatti così, purtroppo, ma oggi visto che no. Fino a che gli italiani sono diventati peggio, sono diventati. Era come una baga, io si ritirava di là a faccia, invece fare così il travaglio come ci si dice. Invece fanno cassate, fanno un bel di cassate, loro tagliano bene l'erba, capito? Prima anni fa la raccoglievano anche quelle che tagliavano, noi adesso non le raccolgo, lasciano tutto lì. Cazzo, poi ammucchiano col soffiatore e ci buttano in mezzo e diventano pasticce. No, non fanno le cose come si deve, così, ecco cosa. Certo, la tagli sono passati, che si hanno fatto i bordi dei qui, perché dagli all'erba hanno fatto i bordi. Più bassano, due volte più bassano, ma tagli all'erba. E quelli sono un coso, non si chiamano, vanno in appalto, mi so. Per il comune dati in appalto, ma questi appalciatori sono a Romagna che si mangia e il lavoro non lo fanno bene, capito? No, sono salito a parlare con l'assessore e con il coso. Ha detto che se gli fai tagliare l'erba deve venire bassa due volte, deve venire bassa, prima tagliano i bordi, poi bassano un altro mese, poi tagliare l'erba. Ma come ha detto Gesù, è passato prima, che non l'hai fatto prima, invece di tagliare i voti. Io non lo so. Ma che abbiamo imparato, che ci ha fatto così, non ci ho compreso. Carità, gatta. Capire, gatta, capire, gatta. Come mai, gatta? Cazzo, il dato del lavoro no, non lo controlla, ma mi sembra che il dato del lavoro è peggio degli operai. Certo, fa la cosa a travagliare e da rifare, e da va a rifare, che passa due voci, passano. Ecco cos'è, anche quando hai fatto due voci, va, due voci, e tornare a crisi, ma devi fare tutto da capo, devi fare, ecco cos'è, e ne devi fare tutto un paio, devi fare. Bisogna mettere un articolo sul giornale, capito? Bisogna mettere un articolo sul giornale. Qua dietro c'è un albero che ha un medifoglio e scadono, è sporco sulla strada, no? Già ci sono macchine, ogni tanto passa con la macchina per pulire, e invece passa in mezzo alla strada, però sugli angoli non si avvicina, se ne va così senza raccogliere niente. Mentre che prima invece c'era lo stattino che raccoglieva dietro le macchine e poi passava la macchina e la raccoglieva. Invece adesso passa la macchina così e basta. E quella che c'è sul marciapiedi rimane sempre in mezzo. E poi quando piove scende tutto il tombino e imballa i tombini. Gian Maria, la spazzatrice, prima c'aveva uno che passava insieme alla spazzatrice, ma va e scende già per la giura e scende, ma chi dice che non va personale, deve assumere un poco, ancora non si vede. Ma per lui fretta in fretta, gatta, la bella meglio e se ne vanno. Tutto fatto, però non c'è un controllo e il lavoro lo fanno bene, cazzo. Ma ci dovrebbe essere un controllo secondo me, perché il comune paga a queste persone per fare questo lavoro, ma non ne fanno lavoro come si deve. E dovrebbero metterci davanti il comune. Devi fare così con un operaio. Invece mi sa che l'operaio è contro Giulio. E forse con il comune magari ti altra gente. Non viene più il nome. Beh, operaio giuro, controlli, non viene giù più. Ecco cos'è, faccio a mangiare un ghizzo e poi non rivedi più. Ma tu dici ciò, non lo so com'è la situazione. Certo, io dico solo questo, che uno che prende l'asfalto deve fare il lavoro che come si deve, invece no, fanno anche la fugliatura, non ce la fanno bene, però quelli là pagano però. Il comune paga, siamo noi che paghiamo, non paghiamo la tassa mondezza, che è diventata più cara, di tutta Italia è diventata, ecco cosa è. Ma che sanno dove si abbassa dal prossimo anno, dove si abbassa un poco. Speriamo che abbassi, speriamo che lo aumenta, ma che sono sempre aumentati, come tutte le cose, sempre aumentati, però a noi non si aumentano mai. E a noi non si aumentano mai, a noi si aumentano i bocchi spiccioli, si aumentano, ecco cosa è. Chissà che gli siciliani del comune abbassano un po' la tassa mondezza, che è la più alta d'Italia, e cosa la differenziata è andata più bene di Cagliari, è andata. Per carità, stiamo andando peggiorando tutti gli anni, stiamo andando peggiorando, per carità. come si fa a fare cose di riga se lo sogno? Beh, la postura di due. E infatti è così. Speriamo che passi a tra cosa. No? Chissà. Mi pare che peggio. Diventiamo al di fretta peggio perché migliorare. Noi paghiamo. Cioè, com'è che paghiamo buri? A me l'anno passato era 73 e c'hanno 75, a me ne è più aumentando, e ce lo sto dicendo ogni anno, dai, ma aumenta, come aumentano tutte le altre cose, aumenta anche quello lì, non so io, però aumentano loro, ma non perché non si aumentano. Ma lì ci bisogna dirlo, lì ci bisogna dirlo. A gennaio sta aumentando di pochi spiccioli, si aumentano, invece di aumentare, come che deve aumentare, si deve abbinare, e non si soffrisce. Ma ecco, prendi, cioè lì ti sei diventato un giocato, un giocato di giocano, per carità. Poi, a me a me danno tutti i bugli, ma che si so, se butterà a me magari le buia a sé, prima guardiare di sì, magari a me non è possibile, ma prima guardiare di sì. Prima sì, ma com'è a me non mi hanno educato, ho già recuperato tutti i canti io. Hanno già visto che sono arrivato a 42, mi ha fatto una domanda e cioè, a gennaio del 2000 sono andato in pensione a 64 anni. Adesso sì, ma prima mi furavano i bocchi, per carità, e altri venti di pensiero, allora, certo. Passavo prima a sapere i 5 anni di contributi a tirarvi la massima, certo, ma invece mi fai le stanze, tirarvi la minima. Vabbè, con 42 anni di contributi sono imbigliato, disgraziato. Adesso è 42 anni e 10 mesi devi fare, perché fa andare in pensione. Per carità, mi vorrà male il bocco da prima. Adesso magari diverso la questione. Però già vero, ma la settimana ma c'è, ci sono più giorni, ci andrà qui. Infatti io vi ho già detto che chiude la mia età dal personale, è andato in pensione e non riescono a tappare le buche. E dice che non ce la fanno per fare tutti i conti a tutti quanti. Per i giochi fino alla macco sta diventando un poco se figlia della massima ma non sai che anche un gioco però lo faccio prima che ho travaglio, capito? A me magari è un po' difficile, ma prima li faccio lì. Io ho già fatto tutto, non me ne sono andato con una massima, non me ne sono andato, devo pure. Ma che se arrivi tu si poteva la domanda, a novembre ho fatto la domanda, a gennaio mi dice che è andato in pensione. La giù bottini. Se c'è stato fortunato, se quando vorrei che mi sono meglio, stai travagliato e cercate di figli, o che non pagano poi i contributi, non le moniane, però tu travagliate e sapete che eri assicurato, spesso magari non si abbia assicurato, capito? Magari ti hanno assicurato da un anno, magari tu hai travagliato 20 anni, capito? Infatti, bisogna dire che si travagliavano non si buoniano i contributi, non li pagavano i contributi. Vedo gente che era con me, che fa 10 anni i contributi, sono i pariti, diciamo. Quarantadue anni e dieci mesi bisogna fare, quella è la massima. Fai una giambucci. Sai che ci non arrivi. Viene un bel così. Prima ragazzi era 30 anni, era 30 anni poteva andare in pensione, aveva 42 anni, poi fai due secche, e adesso, perché era andare a Tiricino, si vede maniera di non partire, vabbè, cioè io chiudo, vai, grazie, la chiacchierata a tutti, ci sentiamo nel prossimo. Buon proseguimento, saluto di casa a tutti. Sì, ok, domani ci risentiamo alle prossime. Stammi bene. Ok, chiudo.